Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e agli amici in ascolto. Allora, oggi parliamo ancora di bollette, ma d'altronde l'Adico ha molto a che fare con questo tipo di problematiche, bollette che in certi casi vanno a creare disagi importanti alle persone, alle famiglie che non riescono a pagarle. Sì Francesco, ci rendiamo conto che le fatture, le bollette, sarà ovviamente che noi svolgiamo questo tipo di lavoro, comunque rappresentano veramente a volte un incubo per le famiglie. Ogni volta che scendono e vanno ad aprire una busta temono appunto di ritrovarsi cifre clamorose e soprattutto hanno molto paura dei conguagli, che sappiamo che sono quei calcoli che vengono fatti spalmati su vari mesi, se non su vari anni, che a volte possono essere veramente deleteri. Ecco, proprio uno di questi conguagli ha messo in ginocchio una famiglia di cui andiamo a raccontare oggi anche tramite il nostro sito, una famiglia del Veneziano che praticamente da circa 5-6 giorni è senza luce, senza energia elettrica, e per un debito appunto di 192 euro su un conguaglio da 600 euro. Qua siamo in una situazione molto particolare perché abbiamo una famiglia con tre ragazzi minori e la mamma è disoccupata e il padre fa dei lavori saltuari. Hanno sempre pagato le bollette regolarmente, in questo caso è arrivato questo conguaglio da 600 euro, hanno chiesto al proprio fornitore se era possibile rateizzare e il fornitore non ha concesso la rateizzazione. Al che la famiglia ha cercato di mostrare la buona volontà andando da autorateizzarsi d'importo, e però dopo un paio di mesi, 2-3 mesi di rate, quando si è arrivati a questo residuo di 192 euro, a questo punto la compagnia ha deciso di togliere la luce e tra l'altro in questo momento non c'è neanche la possibilità di fare un altro contratto. Ricordiamo che il contratto è a nome del padre di famiglia. La donna, la mamma dei tre bambini, non riesce a fare un contratto per conto proprio, quindi praticamente hanno tutto bloccato perché il gestore, fino a che non si va a pagare questo debito, non passa neanche la possibilità a un altro gestore di fornire appunto l'energia elettrica. Ci troviamo in questa situazione, quindi una famiglia di 5 persone e senza luce, e quindi possiamo capire tutti i disagi legati soprattutto alla luce, ma anche al frigorifero, a tutti gli elettrodomestici, insomma una situazione molto difficile. E allora Francesco, ci facciamo una domanda: in casi come questi, qua sono casi difficili, ce ne sono tra l'altro tantissimi in Veneto, in Italia, ovunque, quindi con situazioni economicamente molto difficili, ci chiediamo se sia giusto utilizzare questa metodologia di andare a tagliare la luce, andare a tagliare l'energia elettrica, il gas, quello che è, di fronte a un debito ancora abbastanza affrontabile come appunto 192 euro, e soprattutto di fronte alla palese buona volontà da parte ad esempio di questa famiglia di pagare per quanto in modo rateale, perché proprio non ha altre possibilità. Quindi noi non andiamo a criticare la metodologia utilizzata dal fornitore, perché purtroppo è prevista, andiamo a criticare appunto il fatto che sia prevista, nel senso che mi sembra assurdo che in situazioni veramente così difficili, così precarie, si vada a tagliare la luce, a lasciare veramente in difficoltà e nel disagio un'intera famiglia che è composta, ripeto, anche da tre minori. Ora ovviamente noi siamo intervenuti, questa è la nostra socia, anzi di lunga data siamo intervenuti immediatamente nel giorno in cui è venuta ad avvertirci della sua situazione, era già da 2 giorni senza energia elettrica. Abbiamo scritto immediatamente al fornitore chiedendo appunto, come ho detto adesso durante la tua trasmissione, chiedendo di avere anche un po' di pietà, tra virgolette, nel senso di capire che è una situazione talmente difficile che non si può bloccare una famiglia intera con la luce spenta e neanche concedendo una voltura. Questo chiaramente non ci riferiamo solo a questa famiglia, ma ci riferiamo a tutte le famiglie che sono molto in difficoltà spesso nel pagamento delle fatture, perché si trovano a volte di fronte a dei conguagli. Abbiamo già parlato molte volte di quelle fatture da incubo che arrivano a casa ogni tanto delle famiglie, sì. E ci sono alcune famiglie che non possono assolutamente pagarle, quindi diciamo ai fornitori: concedete la rateizzazione, conviene anche a voi, perché comunque diventa tutto più complicato quando si va a staccare la fornitura. E cerchiamo insomma di capire anche, a seconda delle situazioni, quali siano appunto le situazioni per le quali bisogna avere un po' di elasticità e insomma, certo, anche la capacità di capire appunto le difficoltà in cui versano alcune famiglie. Certo, mi viene in mente che poi anche per riattaccare la corrente poi ti chiedono anche degli oneri accessori ulteriori, no? Ci sono alcune decine di euro, si può andare dai 70 anche ai 90 euro per riallacciare, e addirittura qua siamo in una situazione in cui non si può riallacciare fino a che non si paga il debito e non si può fare una voltura. Noi sappiamo, insomma, viviamo in una società in cui l'energia elettrica è diventata fondamentale e un bene primario, quindi cerchiamo di venire incontro a queste famiglie, perché non siamo in un bel periodo. Questo, ecco, è veramente un appello che lanciamo di cuore ai fornitori. Ci auguriamo intanto che la nostra lettera sortisca gli effetti sperati. Ecco, poi ricordo che la Caritas diocesana, piuttosto che anche a volte gli stessi comuni, cercano di venire incontro nel pagamento di alcune bollette, quindi è importante informarsi anche su questo. Grazie comunque al lavoro che state facendo come Adico. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. Ci risentiamo tra qualche giorno per un nuovo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.